Siamo in collegamento telefonico con Geneviève Vaughan per parlare del suo libro Economia del dono materno, una rivoluzione pacifica che sarà presentato sabato 24 febbraio alla Casa Internazionale delle Donne. Geneviève, intanto benvenuta. Grazie mille. Ci presenti un attimo il libro? Sì, è un libro breve di quelli che vanno adesso perché nessuno ha più tempo per leggere dei tomi grossi. È una specie di riassunto, una presentazione piccola di una teoria su cui sto lavorando da tantissimi anni e su cui ho scritto vari altri libri, che tratta dell'economia del dono basato sul materno, insomma, perché adesso ci sono vari tentativi di fare economia del dono e vari esempi, non so, anche con l'internet stesso, che adesso si sta commercializzando parecchio, ma fin dall'inizio è stato un esempio di uno spazio libero di dono, che ci sono gli esempi come Wikipedia, per esempio, dove c'è il dono, intanto l'economia del dono viene praticato anche in esperimenti sociali, eccetera. E solo che adesso non, questi non riportano l'idea dell'economia del dono o del gratis al materno, che è quello che io cerco di fare. Infatti abbiamo tutti delle madri, siamo nati tutti da madri e quindi abbiamo l'esempio, il modello del materno, tutti quanti, non è che i maschi non ce l'abbiano e le femmine sì, tutti abbiamo. E nei primissimi giorni delle nostre vite dobbiamo avere qualcuno che ci accudisce, ci nutre gratis, altrimenti non sopravviviamo. Perché no, i bambini piccoli non possono scambiare, non possono fare un quid pro quo per qualche cosa, non possono avere, non entrano nel mercato per poter essere nutriti. E quindi deve essere un'economia gratis in cui loro possono stare i loro primi giorni, i primi anni. E questa è la base, secondo me, di tutta l'economia, che poi, mentre cresciamo, viene storta e diventa mercato attraverso questo storcimento. E l'idea di quello che dobbiamo fare è tornare a questa economia materna e rifare tutta l'economia in quella luce invece che in quella del mercato. Ecco, proprio a questo proposito, leggo nella presentazione che è una proposta di alternativa all'economia di mercato capitalista patriarcale. Ma materialmente, questo com'è possibile, visto che specialmente in quest'ultimo periodo si concentra sempre di più la ricchezza nelle mani di pochi a discapito delle masse? Penso che abbiamo visto anche vari momenti in cui è crollato il mercato, e questa accumulazione nelle mani dei pochi non può continuare. Se non viviamo, insomma, potremmo vivere in una società totalmente fascista, completamente controllata, ma anche quello non funzionerebbe mai. E quindi l'alternativa ci deve essere, e tutti dico che tutti noi abbiamo già questa altra economia nella nostra infanzia e nella nostra psicologia. Abbiamo sbagliato di usare il mercato, cioè lo scambio, per poter distribuire i beni. Avremmo dovuto sempre rincominciare o continuare a fare l'economia del dono materno. Adesso ci sono delle società ancora di nativi americani che avevano l'economia del dono in questa maniera, ci sono ancora società matriarcali che l'hanno fatto. Certo, è difficile adesso con il mercato che copre tutto, ma tante persone stanno cercando alternative, ci sono tanti ecovillaggi, insomma, moltissimi posti dove già si pratica una specie di economia del dono materno, ma non si chiama così, questo è il fatto. Sì. Senti Genevieve, hai citato gli ecovillaggi, le società matriarcali, i nativi americani. Ecco, visto che è una ricerca che conduci da diverso tempo, volevo sapere dove hai effettuato queste ricerche, in quale società, a quali società ti sei rivolta. Ma io non sono antropologa e non ho fatto nessuna indagine sul posto, ma conosco persone, per esempio, degli Irochesi, che sono della tribù Seneca, che hanno scritto cioè sono studiosi che sono nativi americani, studiosi. Ormai, insomma, non è che solo praticano la cosa loro, ma insegnano anche all'università e loro stessi parlano dell'economia del dono matriarcale. E poi c'è il lavoro di Heidegger Abendroth che ha fatto studi in tutto il mondo su tutti i vari gruppi matriarcali e anche un libro in Italia che si chiama Credo Società Matriarcali e cos'era l'altro gruppo che m'avevi detto? No, vabbè, ho citato nuovamente quelli che hai detto tu, dagli ecovillaggi alle società Sì, dagli matriarcali. ecovillaggi già Sì. e anche quelli non è che ho fatto una indagine sul posto, solo che conosco che tanti di questi ecovillaggi utilizzano una specie di economia del dono, cioè è anche ovvio che si faccia. Sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento per la presentazione del tuo libro Economia del dono materno, una rivoluzione pacifica, sabato 24 febbraio alla Casa Internazionale delle Donne a Roma. Genevieve, ti chiedo anche dei riferimenti internet per saperne di più. Allora, ho un sito in inglese, gift-economy.com, Sì. e un altro che è in italiano, economiadeldono.org. Perfetto. Allora io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille.